se lungi il suo ben, qual più doglioso stato ve mai d'un cor che sia amoroso. Prenderla voglio, affetto colla. Aida! Vuoi dir mia, o come pardoni, madame, una crute? Cieli, che vedo mai? E l'abbia prigione! Te renda il tuo rigore al mio povero amore, la rapita beltà. Strana follia. Qua, vous donc riez, votre bleu, la railleuse, irriterò contro i tuoi sciocchi errori, le donne, i cavaliere, l'arme in amore. Amor, dove guidasti? Alla malferma, ti spietato corri, prenderai il mio rigore, la rapita beltà. Medoro, oddio, troppo fosse spietata, ebbi sempre pietà dei suoi tormenti. Tormenti, sentiti l'eco, l'ingiuria d'un mio povero amore, da cui la speme ha già tolto congedo, ti di che facendeco. Al mio dolore. Menti, barbara donna, io non ti credo.